Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo qui con Vitra, giovane rapper classe 93 di Milano. Ciao Riccardo, benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao Olga, grazie, grazie mille. Vita di V è il tuo nuovo EP uscito il 28 aprile. Il titolo è un riferimento sia al romanzo di Yann Martel sia al celebre film Vita di P di Ang Lee. Ci racconti un po' come è nato il progetto e come mai questo riferimento? Nasce un po' da un percorso che è stato un po' difficoltoso, mi permetto di dire questa parola perché non ho iniziato da poco a fare musica, in maniera più specifica rap, ma sono un po' di anni che mi diletto nello scrivere e nel produrre. E purtroppo ho avuto un periodo un po' difficile, nel senso che c'è stato un momento della mia vita che posso portare tranquillamente al 2018, dove ero andato veramente tanto in hype, ma poi per tutta una serie di situazioni create dalla mia vecchia label discografica mi ritrovo a non far uscire musica per tanto tempo. Ora, Vita di V nasce in relazione appunto al film Vita di P, perché chi ha visto quel film sa benissimo che il messaggio che vuole passare quel film è il passaggio da una vita adolescenziale dove non ci sono problemi, poi passare appunto alla fase adulta, tra virgolette, dove ti scontri con dei problemi e ovviamente devi trovare anche la soluzione a questi problemi. Quindi diciamo che il percorso che fa un po' l'EP è quello del passaggio da pezzo un po' più ragazzino, legato alla strada, che è un po' il mio vissuto per intenderci, fino ad arrivare poi all'ultima traccia, che è Uomo, dove appunto racconto la mia evoluzione. Se non sbaglio, Vita di V è il tuo primo EP dove insomma cerchi di raccogliere un po' tutto il tuo percorso, perché prima ci sono più singoli, ecco, che progetti veri e propri, e ascoltando il disco si sente proprio questa evoluzione. Volevo chiederti, l'EP è prodotto da Sick Bud? Non in toto, però 5 tracce dell'EP sì, sono prodotte da Sick Bud. Come vi siete conosciuti con Sick Bud e perché hai deciso di affidarti a lui per le produzioni? La conoscenza con Jacopo è nata tramite amicizie in comune, non abbiamo subito iniziato a lavorare insieme, però ci siamo trovati talmente tanto in sintonia che a quel punto lì abbiamo deciso di prendere e iniziare a sviluppare un progettino insieme che poi si è evoluto nella vita di lui. Mi ha dato anche una gran mano, questo lo devo ammettere, a scoprirmi un po', nel senso anche ad andare un po' più a fondo nella scrittura del testo e a cercare comunque di trasmettere i messaggi che volevo trasmettere in maniera differente rispetto a quello che avevo fatto fino a quel momento specifico lì. Per quanto riguarda invece i featuring, sono due. Sì? Vediamo Du Brasil, se non ricordo male, e Eito. Volevo sapere com'era stato il vostro incontro e come sono nate un po' le collaborazioni. Guarda, con Eito, praticamente io ho un grande amico che si chiama DJ Arrow e lui lavora con una grossa label discografica tedesca, che è la Banger Music, però tra me ed Arrow c'è una grande amicizia di base. L'incontro con Eito nasce perché il ragazzo veniva in Italia a far musica, comunque a passare un paio di settimane di vacanza e produzione, e quindi Aro ha avuto la fantastica idea di chiamare Eito nel mio studio di registrazione e di farci collaborare. E invece con Du Brasil? Praticamente Martina è arrivata nel mio studio tramite uno dei due ragazzi con cui io collaboro assiduamente, che è Alex Rubia. La Martina, la Du Brasil, è una cara amica di Alex, al che lui decide di presentarmela, stesso modo, me la porta in studio, ed è nata una collaborazione con lei dove effettivamente, cioè, mi è piaciuta talmente tanto, ma non solo musicalmente, parlo anche proprio di storia, di vissuto, che abbiamo deciso proprio di curarla in tutto e per tutto. Quindi diciamo che anche adesso con lei stiamo lavorando ai suoi progetti, e il pezzo nostro è nato perché io avevo scritto completamente da solo questa traccia, Amore Impossibile. Una volta che lei è venuta in studio abbiamo deciso proprio di creare questo botta e risposta, perché quella traccia, quando io la scrissi, ero in un momento di crisi a livello emotivo e sentimentale, ho tirato fuori tutto quello che poteva essere marcio, no, che c'era nella mia relazione quando l'ho scritta, e ci è venuta questa idea appunto di trattarla con un botta e risposta, come se fossi io che parlassi alla mia ragazza e la mia ragazza invece che poi rispondesse a quello che io dicevo a lei. Volevo chiederti se invece hai in programma, dato che inizia la stagione dei concerti, se hai in programma qualche live. Guarda, come data per ora ho una data organizzata da dei ragazzi di Torino il 25 maggio al Barriers. È un ambiente che frequento da tanti anni, credo che sia comunque un ottimo ambiente per presentare inizialmente le proprie opere, quindi partirò da lì dal 25 maggio al Barriers e poi spero che verranno fuori ulteriori date mano a mano. Grazie mille per la bella chiacchierata e grazie. Invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko ad ascoltare Vita di V e ancora grazie per essere stato qui con noi. Grazie Olga, grazie a te e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko. Grazie a tutti. Se ogni volta che non ci riesci lasci, non si vuole lacrime di chi ne ha viste, anche quelle